Voto di fiducia sul DDL sicurezza con il reato di clandestinità. Fini, striglia la Lega, basta eccessi e propaganda. Il Papa Betlemme invoca uno stato per i palestinesi, piango dice per le vittime di Gaza. Maxi multa per Intel, l'Europa sceglie la linea dura come per Microsoft, per abuso dominante dovrà pagare 1 miliardo. Formula 1 nella tempesta, dopo la Ferrari lascia anche la Renault. È strage umanitaria in Sri Lanka, l'allarme dell'ONU, anche operatori umanitari italiani stretti nella morsa tra esercito e ribelli tamil. Il K2 conteso perde uno dei suoi protagonisti, è morto Achille Compagnoni, l'italiano che scalò la vetta con la Cedelli. Gerex Alarge, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. E dunque questo è il giorno del voto alla Camera della fiducia al disegno di legge sicurezza. Scomparso l'obbligo per gli stranieri di presentare il permesso di soggiorno per accedere a ospedali e scuole, tema che aveva sollevato molte polemiche, ricorderete, restano le novità e anche alcuni punti controversi. A cominciare ad esempio dalle implicazioni del reato di clandestinità, ne parleremo anche più avanti con un ospite. Intanto però andiamo a Montecitorio per capire come sta andando la giornata. Buongiorno a Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Tra breve inizierà la votazione sulla fiducia relativa al secondo dei 3 maxi emendamenti del governo sul disegno di legge sicurezza. La votazione, lo ricordiamo, è palese per appello nominale. In mattinata l'Aula della Camera ha dato il via libera al primo maxi emendamento. I voti a favore sono stati 316, 258 i contrari. Hanno votato sì Popolo della Libertà e Lega, contrari Partito Democratico, Italia dei Valori ed UDC. Nel pomeriggio si concluderanno le votazioni sulla fiducia. L'intero provvedimento sarà licenziato. Domani il testo tornerà quindi al Senato per il passaggio definitivo. Diversi gli elementi che caratterizzano il testo: lo straniero che entra in Italia illegalmente commette un reato, e questa è la norma centrale del disegno di legge. Vi è poi il prolungamento fino a 6 mesi della permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, ed ancora legalizzazione delle ronde, schedatura dei senza fissa dimora, inasprimento del 41 bis, norme anti-graffittari. La polemica politica in queste ore si sta concentrando però sui respingimenti dei clandestini messa in atto da Palazzo Chigi. Ferma questa mattina la presa di posizione del presidente della Camera Fini: bisogna evitare eccessi propagandistici, ha detto Fini, che ha però definito non peregrina l'ipotesi di Maroni di far verificare le richieste di asilo in Libia. E da Montecitorio è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Un voto, come sentivamo, anche con implicazioni politiche, con lo scontro tra il PDL e la Lega all'interno della maggioranza. Molti hanno digerito male proprio all'interno della maggioranza l'imposizione del voto di fiducia. Alla fine lo schieramento è tornato compatto? Ci saranno degli strascichi? La domanda la giriamo a Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Ospite consueto ormai di anche del GR Extra Large. Stefano, si dice sempre campagna elettorale, ci sono le europee alle porte, però insomma c'è stata un po' di tensione, no? Sì, c'è tensione, ci sono dei punti di vista diversi all'interno del Popolo della Libertà. In parte sono figli di effettivi contrasti su alcuni punti di fondo, per esempio Fini, che ha difeso sostanzialmente il diritto d'asilo, cioè un elemento giuridico che non può essere perduto nella nostra civiltà. Per altri aspetti sono anche un po', diciamo, il prodotto di un gioco delle parti, perché il Popolo della Libertà più la Lega hanno anche interesse a rappresentare un ventaglio di posizioni dalle più intransigenti alle più morbide, perché questo dal punto di vista elettorale conviene. E, indubbiamente, il voto di fiducia copre un po' questi contrasti, queste divisioni, e permette però al centrodestra, alla maggioranza, di portare a casa un risultato da un punto di vista politico elettorale piuttosto importante, perché si tratta di uno degli elementi cardine del loro programma. Evidentemente però il problema della sicurezza, il problema di come gestire l'immigrazione clandestina è destinato a durare e a produrre poi tutta una serie di conseguenze che valuteremo volta per volta. Grazie a Stefano Folli, vedremo ovviamente come andranno oggi le altre votazioni, continueremo a seguirlo nel corso di GR24. Di certo, come dicevamo, cambia anche la concezione giuridica di quella che è la clandestinità in Italia, e di questo ne parleremo più avanti anche con un ospite. C'è però anche l'altro fronte della lotta all'immigrazione clandestina, quello dei respingimenti in mare. Parla oggi nuovamente il ministro degli esteri Franco Frattini. Sull'immigrazione l'Unione Europea ci ha dato una risposta solo parziale, è necessaria una riunione non solo dei ministri degli interni ma anche dei responsabili degli esteri, ha detto il titolare della Farnesina, che oggi è in visita in Tunisia. E la politica del respingimento e dei pattugliamenti congiunti tra Italia e Libia potrebbe influire, anzi influirà, sulla geografia dell'immigrazione clandestina. Abbiamo chiesto un parere a Marco Lombardi, responsabile del settore internazionale della Fondazione ISMU, che si occupa proprio di seguire i flussi migratori. Al microfono di Micaela Nasca spiega quali potrebbero essere le nuove rotte dei migranti. Possibile che ci siano minori partenze dall'Africa verso l'Europa, questo non vuol dire che arrivino meno persone verso l'Europa, cambieranno punti di ingresso o punti di imbarco, si incrementeranno i percorsi che già ci sono, quelli che passano per esempio attraverso la Turchia, salgono poi per Grecia, Bulgaria, attraverso poi i paesi balcanici dell'ex Jugoslavia, oppure si entrerà attraverso le repubbliche sovietiche, quella che una volta era la via della seta è diventata poi la via dell'oppio e anche la via degli uomini. Ecco, e se le rotte si allungheranno per eludere i controlli, non c'è il rischio concreto che i viaggi saranno più pericolosi? Io non credo che possano essere più pericolosi, il rischio è elevato per entrambi. Oggi il rischio di attraversare il Mediterraneo attraverso quelle spaventose carrette che vengono usate è elevatissimo, il pericolo di quelle altre rotte che sono rotte via terra è di passare più tempo in ambiti angusti come una cella d'un camion, ma non credo che ci sia un netto incremento del pericolo per lo spostamento delle rotte. E voltiamo pagina con un altro viaggio, quello del Papa in Terra Santa. Oggi il Pontefice ha toccato un'altra tappa attesa, è a Betlemme, dunque in territorio palestinese. Buongiorno a Carlo Marroni. Sì, buongiorno a voi. La messa è finita da circa un'ora, ora il Papa sta pranzando presso la custodia francescana. Messaggio politico molto forte oggi qui in terra palestinese. Uno Stato, ha detto, per i palestinesi, uno Stato in sicurezza, in pace con Israele, appunto all'interno di confini sicuri, e ha criticato apertamente il muro, il famoso muro di sicurezza costruito 5-6 anni fa, che è un po' il simbolo di questa, insomma, della separazione di questa terra. Il Papa ha anche chiesto, ha auspicato che venga tolto l'embargo a Gaza, tema che probabilmente entrerà nell'incontro di domani a Nazaret con il primo ministro israeliano Aaron Netanyahu. E per ora da Betlemme tutto, linea allo studio. Carlo, se sei ancora in linea, dato che tu proprio ci avevi detto che sul lato israeliano qualche perplessità il Papa l'aveva lasciata, dal punto di vista delle terre palestinesi, il Papa incontrerà anche i prigionieri palestinesi, i familiari di prigionieri palestinesi. I genitori di due prigionieri palestinesi all'interno del campo profughi di Aida, dove andrà oggi pomeriggio. Come ricorderete, due giorni fa aveva incontrato i genitori del caporale Shalit, israeliano rapito da Hamas nel 2006, un segno di vicinanza a questo popolo che in buona parte è cristiano. Ricordiamo che appunto chi è cristiano in Terra Santa tendenzialmente è palestinese o comunque arabo, ma è naturalmente ebreo, o sono molto pochi i cristiani israeliani. Quindi ecco, diciamo così, è un segno di vicinanza molto forte a questo popolo, un messaggio che in qualche modo ha stupito per la sua forza e anche per questi gesti simbolici, tra cui quello di cui dicevate ora. Grazie, resterà forse questo per il momento davvero il segno più forte di questo, del viaggio di questo Papa in Terra Santa. Anche in questo caso durante la giornata continueremo a seguirlo con Carlo Marroni. Nel frattempo veniamo invece in Europa con una nuova maxi multa per Intel. Il colosso americano è stato multato dall'Unione Europea, anche più, ricorderete, di quanto già non fece con Microsoft. È la più alta multa mai inflitta dall'antitrust europeo per pratiche anticoncorrenziali. Destinatario è il colosso dell'high tech americano Intel, che dovrà pagare 1,60 miliardi di euro per aver abusato della sua posizione dominante nel campo dei microchips dall'ottobre 2002 al dicembre 2007 per estromettere i concorrenti, in particolare AMD. Due in particolare le imputazioni di Bruxelles, che sono state contestate dal commissario europeo alla concorrenza Neelie Kroes: la concessione di sconti da parte di Intel ai rivenditori che compravano in esclusiva il microchips X86 SPU, ma anche il pagamento di somme ai produttori di computer che accettavano di rimandare il lancio di prodotti contenenti i microchips dei concorrenti. Intel ha danneggiato milioni di consumatori europei, ha affermato il commissario Kroes. Lo slogan dell'impresa è sponsor del futuro, ma noi li abbiamo resi sponsor anche dei contribuenti europei. Enrico Brivio, GR24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E c'è un altro record, non è una multa ma è il purtroppo debito pubblico italiano. A marzo è tornato a crescere superando anche il record già segnato a febbraio, toccando la quota di 1.741.000 miliardi di euro. Non sono sicuro di aver letto correttamente la cifra, sono tanti gli zeri, le virgole che fanno girare gli occhi. È quanto si legge nel supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia sull'andamento della finanza pubblica. E tra l'altro continuano, ed è questo il motivo per cui sale il debito pubblico, a calare le entrate tributarie. Ne abbiamo parlato a lungo questa mattina GR24. Spicca in queste ore il rialzo delle quotazioni del petrolio, che ha toccato ieri $60 al barile, dal minimo di 32,70 segnato a gennaio. Si tratta in sostanza di un rialzo dell'88%. La benzina è già tornata a toccare i massimi degli ultimi 7 mesi. E allora Deborah Rosciani ne ha parlato con Pasquale De Vita, presidente dell'Unione Petrolifera. Su tutti i mercati, su tutti i prodotti, soprattutto per le materie prime, ci sono delle leggi molto semplici che regolano un po' l'andamento dei prezzi. Nel momento in cui c'è una grande richiesta e una scarsa offerta, i prezzi salgono. Nel momento in cui c'è una scarsa domanda e invece una buona offerta, i prezzi o scendono o restano fermi. Noi in questo momento, nel mondo, quindi parliamo di una situazione generale, abbiamo una domanda molto fiacca, quindi scarsa domanda, e abbiamo un eccesso di offerta. Sarebbero le condizioni ideali per mantenere un prezzo basso. Perché io parlo di speculazione? Perché già nell'altra tornata di luglio scorso non era il mercato del greggio o non era la domanda e l'offerta che spingevano in alto il prezzo, era la speculazione finanziaria. Comprano greggio, ma comprano la carta, cioè il documento, il certificato che dà diritto ad avere una nave, e lo fanno passare di mano 10 volte. Grande appuntamento per gli amanti del cinema: a partire da stasera apre infatti il Festival di Cannes. Ad aprire sarà una stranissima coppia. Salve signor Fredriksen, la prego, mi faccia entrare. No. Va bene. Carl ha 78 anni e per una vita ha venduto palloncini sognando viaggi mai realizzati. Russell invece è un boy scout cicciottello di 9 anni. Sono a cartoni e sono 3D. Tutti gli occhialini quindi questa sera a Cannes per Up, l'apertura che sdogana definitivamente, se mai servisse ancora, l'animazione come grande cinema. Con tanti saluti! E poi 10 giorni di film, forse non tantissimo glamour, ma grandi maestri. Da Alain René a Jane Campion, Pedro Almodovar, Quentin Tarantino, Lars von Trier, Ken Loach. Il favorito per molti, Michael Haneke, Ang Lee e il nostro Marco Bellocchio, con la storia segreta di Ida Dalser, prima moglie di Benito Mussolini. Io sono stata la prima a credere in lui. E se lui è diventato quello che è diventato, lo devi anche a me! Mussolini! Ci hai abbandonato nella miseria più nera! Il vero primo scoop di Cannes però potrebbe essere domani l'arrivo di Roxana Saberi, la giornalista irano-americana di 32 anni liberata dopo le accuse di spionaggio in Iran. La Saberi firma infatti la sceneggiatura del film del fidanzato Bahman Kobadi, Non si sa niente dei gatti persiani, che aprirà la sezione Un certain regard il 14. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:18 minuti, tornano le notizie di oggi di GR24 Extra Large. E siamo partiti dal voto di fiducia al DDL sicurezza con il reato di clandestinità. È arrivato il primo dei 3 voti attesi, il parere è stato favorevole. Il presidente della Camera Fini ha strigliato la Lega, basta eccessi e propaganda. Poi ci siamo occupati anche della visita del Papa in Terra Santa a Betlemme. Benedetto XVI ha invocato uno Stato per i palestinesi. E poi la maxi multa è un record per l'Europa, ha inflitto la Commissione una multa come avvenne per Microsoft anche alla Intel. Il gigante americano del chip dovrà pagare 1 miliardo per pratiche anticoncorrenziali. Ed dicevamo, c'è un nuovo importante, forse decisivo tassello nella lotta fra grandi costruttori e Federazione Internazionale dell'Automobilismo. Anche la Renault ha annunciato l'addio alla Formula 1, come ieri la Ferrari, a partire dal prossimo anno. Il giocattolo si è rotto e dopo la Ferrari, la Toyota, la Red Bull, la Toro Rosso e ora anche la Renault, sicuramente altri costruttori si schiereranno tutti contro la FIA e il regolamento a due velocità imposto da Max Morley. Nessuno di buon senso vuole una Formula 1 con assieme team di serie A e serie B che accettino una formula spendi meno ma con agevolazioni tecniche troppo sproporzionate. Insomma, per dirla nel politichese italiano, è un porcellum. Mercoledì prossimo a Monte Carlo è previsto un incontro chiarificatore tra la FOTA, la Formula One Team Association, e la FIA. Montezemolo e Morley si troveranno finalmente di fronte, e questa volta non con fumose argomentazioni ma con posizioni ben distinte. La Ferrari e gli altri costruttori dissidenti vogliono una riduzione dei costi, ma fatto in modo intelligente e senza doppie interpretazioni tecniche. Chi perderebbe da un simile braccio di ferro è sicuramente la FIA. Eccleston lo sa e i suoi proventi dai diritti televisivi crollerebbero, mentre gli altri costruttori potrebbero schierare in un campionato alternativo con tre monoposto ciascuno, creando così una griglia di partenza come l'attuale, inoltre con i migliori piloti. Per questo Eccleston si è affrettato a gettare acqua sul fuoco. In definitiva sembra di più una vera polpetta avvelenata per Mr. Mosley. Patrizio Cantù, GR24, Sole 24 Ore. E torniamo alla notizia che ha dato la stura a tutto questo. Era stata ieri la Ferrari ad annunciare la rottura ufficiale. Il consiglio di amministrazione di Maranello ha confermato la opposizione alla nuova regolamentazione imposta dalla FIA, chiarendo che non intende iscrivere le proprie vetture al Mondiale 2010. Decisione dunque presa. Una rivoluzione per il Cavallino Rosso. Davvero? E come viene vissuta allora al quartier generale? Siamo andati a curiosare a Maranello, dove c'è Emilio Buttaro. Emilio, buongiorno. Sì, buongiorno. Qui i tifosi, dopo il primo naturale disorientamento, si sono mostrati, diciamo, per la maggior parte in linea con la Ferrari, dunque decisi a seguire la battaglia del presidente Montezemolo e addirittura, come ha detto qualcuno, pronti a protestare in piazza. Ovviamente qui non si parla d'altro, oggi in giro si sono viste più magliette rosse del solito ed anche diverse troupe televisive. Io sono in compagnia del sindaco di Maranello, architetto Lucia Bursi. Ecco sindaco, c'è un po' una certa preoccupazione per quello che sta succedendo, ma cosa viene a mancare se la Ferrari lascia davvero il mondiale? Dal mio punto di vista sicuramente la parte sportiva dei tifosi, la parte della passione senza il mondiale viene a mancare, però io devo dire secondo me mancherà anche altro perché sicuramente la Formula 1 per noi è soprattutto sinonimo di ricerca avanzata, di qualità, di innovazione, cioè la gestione sportiva Ferrari non è solo competizione, è ricerca, quindi questo secondo me sarà uno anche degli elementi che devono fare riflettere in modo particolare, perché su questo potrebbe essere una grossa perdita, quindi io devo dire la verità, mi auspico che non sia questa la soluzione, il finale di questa questione. Grazie al sindaco, direi che è tutto da Maranello, a voi studio. Grazie allora a Emilio Buttaro anche per il racconto di come si sta vivendo in queste ore, proprio a caldissimo della notizia a Maranello, la Ferrari abbandona la Formula 1 e ci sarà da vedere che cosa arriverà in sostituzione. Le prossime tappe non mancheranno, insomma. Andiamo a Milano con la cronaca. Raffaella Calandra, buongiorno. Nuovi arresti per quella che a Milano è stata definita la clinica degli orrori, la Santa Rita. Sì, un anziano con bypass a cui era stato lacerato il cuore, una donna non in pericolo di vita sottoposta ad influenza ad un intervento pericoloso e poi morto. Operazioni inutili, almeno 4 casi di decessi per interventi inopportuni e 3 nuove di ordinanza di custodia cautelare per omicidio per i medici della Santa Rita. Terminato l'esame da parte dei periti delle cartelle cliniche, i PM di Milano, Tiziana Siciliano e Grazia Pradella hanno chiesto e ottenuto 3 nuovi mandati d'arresto per l'ex primario di chirurgia toracica della clinica, il dottor Pierpaolo Brega Massone, il suo ex aiuto Prisici, già in carcere e già a processo, e per un terzo medico Panzera che era ai domiciliari, contestata già l'anno scorso quando con 14 arresti, lo ricordiamo, scoppiò lo scandalo Santa Rita delle operazioni inutili per avere più risarcimenti dal servizio sanitario. L'accusa di omicidio volontario aggravata dalla crudeltà fu poi smontata dal tribunale di del riesame che stabilì che non c'era un nesso chiaro tra gli interventi e le morti. Restavano le truffe per 2 milioni di euro e le lesioni per cui i medici sono già a processo. Ora però, sulla base delle consulenze dei periti, 4 nuovi decessi su anziani ripropongono per quel medico che si definiva l'Arsenio Lupin della chirurgia di nuovo lo spettro dell'omicidio. E staremo a vedere. Grazie anche a Raffaella Calandra. Oggi è davvero giornata ricca per lo sport. Torniamo ad argomenti sportivi. Quinta tappa del Giro. Si parte da San Martino, sono già partiti da San Martino di Castrozza e si arriva ad Alpe de Siusi, 125 chilometri, 33 chilometri di salita. Dario Ceccarelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. E ieri di chilometri di salita ce n'erano forse anche di più, una bella tappa, forse due protagonisti, uno positivo sicuramente Di Luca, che ha vinto, e poi anche l'altro Armstrong, che invece ha un po' arrancato. Sì, qualche scricchiolio nell'americano si è notato. Bisogna tener conto che ha un po' di viti nella spalla, perché 50 giorni fa è stato operato perché si è rotto una clavicola. Però tutto sommato diciamo che simbolicamente ha avuto un impatto, perché si è visto per la prima volta il grande Armstrong, quello che ha vinto 7 Tour de France, arrancare su una salita che non era micidiale. Mancavano 600 metri all'arrivo, Di Luca era scattato. In quel momento si è visto l'americano, il texano dagli occhi di ghiaccio traballare, e questo ha colpito. In realtà in classifica generale ancora è lì a 20 secondi dalla maglia rosa, quindi non nulla è perso, però tutto ciò fa pensare che probabilmente Armstrong correrà soprattutto in funzione di preparazione del Giro di Francia. Mentre oggi però, tu dicevi ieri già di chilometri in salita se ne fate, oggi se ne fanno in realtà molti di più, perché diciamo che quella di ieri è un antipastino, una gita, ecco, quella di oggi invece è una tappa importante, con una salita di circa 25 chilometri con pendenze medie fino al 10-11%, e qui di nuovo Di Luca e compagni tenteranno di dare l'assalto alla diligenza, cioè a colpire Armstrong per togliere gli altri secondi, e qui si vedrà se l'americano ha ancora del carburante per resistere oppure punta a un giro più lungo a recuperare nella cronometro successiva. Sì, insomma, quello di ieri è stato un inciampo oppure una vera e propria caduta. Parliamo un po' anche degli altri italiani oltre a Di Luca, che insomma cominciano a scodinzolare là attorno, e naturalmente tutti vogliamo vedere se ci sarà qualche protagonista. Dario, certo, ma Di Luca, solo una parola, è abruzzese. Ecco, ricordiamo, diciamolo, nel senso che in un momento in cui l'Abruzzo vive una fase molto difficile della sua storia, così per le persone d'Abruzzo è così un piccolo momento di conforto, perché è così, vedono un loro idolo che è ai vertici di una corsa popolare come il Giro d'Italia. Gli altri, ecco, si vede Ivan Basso che piano piano sta venendo su. Lui è un fondista, è uno scalatore che guarda ai lunghi a lontano, per cui però è consolante il fatto che sia lì, quindi oggi già lo si potrebbe notare. Poi c'è Damiano Cunego, che ieri ha un pizzico deluso perché nell'ultimo chilometro ha perso il colpetto di pedale, gli è uscito il piede. È un incidente da poco, però in genere gli incidenti avvengono quando uno non è prontissimo, e quindi bisogna vedere se è stato proprio un classico incidente da dimenticare oppure un piccolo segnale di insicurezza. Grazie Dario Ceccarelli, e staremo a vedere. Poi naturalmente noi di Radio 24 seguiremo anche l'arrivo, daremo anche con gli speciali dedicati, esatto, anche quest'anno al Giro. Il mondo dello sport oggi, però, per il mondo dello sport anche un lutto: è morto la notte scorsa all'ospedale di Aosta l'alpinista Achille Compagnoni. Aveva 94 anni. Con Lino Lacedelli fu il primo a raggiungere il 31 luglio del 1954 il K2, la seconda montagna più alta al mondo. Compagnoni era ricoverato da alcune settimane per problemi legati all'età. Il ricordo allora di Achille Compagnoni l'abbiamo chiesto ad un altro vecchio dell'alpinismo italiano, vediamo se abbiamo fatto in tempo a prepararlo per voi, Cesare Maestri. Qualche problema tecnico, vedremo se riusciremo a recuperarlo più avanti, nel frattempo una pausa, eccolo. La sua vittoria sul K2 è questa, è la più importante, però una vittoria tipo il K2 è dovuta a anni e anni di alpinismo, di guida. Che rapporto avevate? Di amicizia. Io mi ricordo così quando io ho fatto la seconda solitaria invernale del Cervino, che è venuto a congratularsi con me, e perché c'era stato un incidente, una cosa non piacevole, insomma, no? Un'altra guida di Cervinia era andata sul Cervino a vedere se era vero che fosse andato in vetta. Io per caso avevo lasciato sulla croce una carta di cioccolata e questa guida mi ha chiesto scusa, però il compagnoni era venuto con me e mi aveva dimostrato la sua comprensione, la sua amicizia, insomma. 13:35, GR24 Extra Large. Voto di fiducia sul DDL sicurezza con il reato di clandestinità. Fini striglia alla Lega, basta eccessi e propaganda. Il Papa Betlemme invoca uno stato per i palestinesi. Piango, dice il pontefice, per le vittime di Gaza. Maxi multa per Intel, l'Europa sceglie la linea dura come per Microsoft. Per abuso dominante il colosso americano del chip dovrà pagare 1 miliardo. Formula 1 sempre più nella tempesta, dopo la Ferrari anche la Renault annuncia l'anno prossimo non ci saremo. E strage umanitaria in Sri Lanka, l'allarme dell'ONU, anche operatori umanitari italiani stretti nella morsa tra esercito e ribelli tamil. Il K2 conteso perde uno dei suoi protagonisti, è morto Achille Compagnoni, l'italiano che scalò la vetta con la Cedelli. E c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda la ricostruzione in Abruzzo. Il contributo per la ricostruzione e la riparazione delle case demolite dal terremoto coprirà per intero le spese necessarie. Era una notizia in ballo, un po' attesa, ed è quanto invece stabilisce un emendamento del governo al decreto legge per l'Abruzzo, notizia di qualche secondo fa. E veniamo all'immigrazione, al reato di clandestinità. Ne abbiamo parlato in apertura di Extra Large, perché ancora in questi minuti si sta votando la seconda fiducia al DDL sicurezza. Salutiamo il nostro ospite di oggi, Gianluigi Gatta, avvocato, ricercatore di diritto penale all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Uno dei punti su cui più si è discusso e si sta ancora discutendo che riguarda questo DDL sicurezza, il reato di clandestinità. Una svolta in qualche modo per l'Italia, qualcuno, l'opposizione in particolare, ma non solo, dice che potrebbe essere incostituzionale. Insomma, come cambia la cultura giuridica in Italia con questo nuovo reato, o perlomeno nuovo per noi? Ma diciamo che sicuramente si tratta di l'introduzione di una figura di reato che solleva alcune perplessità tra i giuristi. Non tanto dal punto di vista o solo dal punto di vista della legittimità costituzionale, quanto dell'efficacia di questo reato a fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Questo perché diciamo che la norma verrebbe inserita nel testo unico dell'immigrazione e verrebbe punita con l'ammenda, quindi solo con una pena pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, quindi anche particolarmente elevata se si considerano i destinatari, quindi l'effettiva possibilità che gli stranieri regolari possano pagare somme di denaro così elevate. Dicevo, una norma che punisce il fatto dello straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato in violazione delle norme che ne regolano, del testo unico di immigrazione, che regolano l'ingresso o la permanenza. Quindi c'è da sottolineare essenzialmente un aspetto, che questa figura di reato è finalizzata all'espulsione. In che senso? Nel senso che laddove la persona sia trovata illegalmente presente in Italia, deve essere espulsa. Deve essere espulsa a prescindere dal fatto che abbia commesso un reato. Quindi va avanti il procedimento di espulsione, una volta che la persona viene espulsa, il giudice penale, che in questo caso si tratta del giudice di pace, altro aspetto particolarmente controverso, riservare la competenza per un reato così importante al giudice di pace, che è un giudice solo onorario, il giudice di pace, pronuncia sentenza di non luogo a procedere, quindi il processo penale muore con l'espulsione che deve intervenire di norma prima della sentenza di condanna. Se invece arriva una sentenza di condanna, a questo punto, anziché la pena pecuniaria che ho detto prima, cioè l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, il giudice sostituisce questa pena pecuniaria con l'espulsione. Quindi, in sintesi, l'espulsione è la sanzione per questo reato. L'espulsione però è già la sanzione che l'ordinamento prevede per l'immigrato clandestino, attualmente certo. È questa la sanzione. Allora c'è da chiedersi qual è la novità. Beh, la novità, salvo più approfondite meditazioni che anche i giuristi dovranno fare sull'introduzione di questa figura di reato, la novità mi sembra che sia in primo piano simbolica, cioè si comunica a un corpo elettorale che ha che manifesta istanze di tutela della sicurezza pubblica legate al fenomeno, alla criminalità, purtroppo legata ogni tanto o spesso al fenomeno dell'immigrazione clandestina, si dà il messaggio, agli stranieri: guardate che l'ingresso, l'Italia non è più la meta, una meta. Senta Gatta, ma questo è chiaro naturalmente, ma noi ci chiediamo anche, negli altri paesi è così? Esiste il reato di clandestinità o dunque, siamo gli unici? Sicuramente esiste in altri paesi e si può fare l'esempio del Regno Unito, della Svizzera e della Francia, dove è prevista una pena, sono previste pene detentive addirittura rispetto a quello che sarà da noi in Italia. Il problema è che a mio avviso la previsione di questo reato negli altri paesi si accompagna a un sistema di esecuzione delle espulsioni efficace. Il problema è che finché in Italia l'espulsione degli stranieri irregolari non raggiungerà livelli di efficacia, quindi non raggiungerà lo scopo a cui si prefigge, introdurre un reato non risolverà i problemi. Ecco, questa è un po' la mia prima impressione. E però ovviamente la discussione resta ancora aperta. Grazie nel frattempo a Gianluigi Gatta, avvocato, ricercatore di diritto penale all'Università degli Studi di Milano. In qualche modo restiamo però in tema, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sull'Italia multietnica e la replica della CEI. Abbiamo iniziato infatti un viaggio nelle città italiane. Allora, dopo Roma e Milano, manteniamo la promessa, andiamo oggi a Napoli. A Napoli l'integrazione tra immigrati stranieri e italiani ha aspetti tra loro del tutto contraddittori. Da una parte c'è la tolleranza tipica partenopea del vivi e lascia vivere, dall'altra invece c'è l'assoluto rifiuto di clandestini, vucumpra in genere di stranieri, visti come coloro che vengono a togliere il lavoro dove già non ce n'è. Quartiere pianura, via dell'Avenire, rione da decenni popolato da nordafricani. Diversi mesi fa la popolazione insorse chiedendo lo sgombero degli immigrati. Ore di tensione che Mustafa ricorda ancora oggi. Tensione, diciamo, spingi questi ragazzi a buttare le bottiglie pieno di benzina, in pietra. La notte non dormiamo proprio. Le manifeste scritte in questa cosa. Allora, sì, che significa? Significa che loro, era un dialogo finto, il senso della parola che vogliono aiutare. No, questo non è più un aiuto, questo è una minaccia. Andiamo a Napoli Est, zona piena di magazzini di import-export gestiti da cinesi. Da tempo qui proprio i cinesi chiedono maggiore sicurezza perché lamentano non atti di razzismo ma di delinquenza comune. I cinesi sono muti, sembra che. Perciò diventa quasi soggetto di tutti tipi di abusi. Immigrati contro immigrati. Qui a Napoli succede anche questo. La cosa più brutta di Italia è c'è questa cosa che... Diciamo, sono questi stranieri che sono proprio cattivi sulla strada, che ce l'hai paura di camminare, non ce l'hai paura proprio di italiani che sei il suo paese, come che ce l'hai paura di altri stranieri che ti vogliono male. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E lasciamo proprio non solo l'Italia ma insomma la Terra, andiamo nello spazio perché oggi è una giornata particolare. Infatti lo shuttle partito 2 giorni fa sta per compiere una delicata operazione. Di che si tratta? Lo chiediamo a Gigi Donelli. Sì, diciamo che sono proprio ore decisive quelle che vivono in particolare gli astronauti della missione Shuttle STS-125. Infatti ora stanno completando letteralmente l'inseguimento del telescopio orbitante Hubble e esattamente alle 18:54 dovranno completare questa manovra di aggancio. Dico esattamente alle 18:54 perché i tempi nello spazio sono divisi, serrati e indicati precisamente. In realtà l'ultima fase è un vero e proprio allungo del braccio meccanico dello shuttle che dovrà prendere e quindi tenere fermo, legato a sé per una decina di giorni, proprio il telescopio internazionale. Insomma, gli Shuttle Cowboy devono catturare il telescopio, portarlo in posizione sulla stiva della navetta Atlantis e da lì iniziare la lunga serie di interventi di ristrutturazione e potenziamento che allungheranno, migliorandola, la vita operativa appunto del formidabile telescopio che, lo ricordo, è nello spazio dal 1990. Ve lo ricordo, l'aggancio è previsto alle 18:54 ora italiana, potrà essere seguita integralmente attraverso il web, c'è una pagina speciale dedicata nel sito del Sole 24 Ore con altre bellissime immagini di questa missione. Hubble ha regalato negli ultimi anni alcune delle più formidabili immagini dello spazio profondo, delle galassie, di veri e propri misteri dello spazio. Ha regalato anche alla ricerca una quantità enorme di dati su cui lavorare. L'idea che possa ancora avere alcuni anni di lavoro, che questi possano essere i migliori della sua storia, naturalmente per il mondo scientifico e non solo, è una grande speranza. Torniamo in studio alle 13:47 minuti. Nella prima parte di Extra Large abbiamo parlato del voto di fiducia al DDL sicurezza con il reato di clandestinità, del viaggio del Papa a Betlemme, ha invocato uno stato per i palestinesi, e poi della decisione non più solo della Ferrari a questo punto, ma anche della Renault, di abbandonare la Formula 1 in polemica con i regolamenti della Federazione Internazionale. Adesso andiamo all'estero. E strage umanitaria in Sri Lanka, l'allarme dell'ONU. Si fanno sempre più aspri i combattimenti, l'avanzata delle truppe cingalesi ha messo alle spalle al muro i ribelli tamil, ormai chiusi in uno stretto corridoio di terra, ma le Nazioni Unite gridano al massacro per le centinaia di vittime civili. Questa mattina è rimasto ucciso anche un dipendente locale della Croce Rossa nei bombardamenti, e nella zona ci sono anche italiani. Uno di loro è Lorenzo Pascotto del CESVI, lo ha intervistato Cristina Balotelli. In questo momento in Sri Lanka abbiamo un plus di 200.000 profughi dalle zone dove attualmente si sta combattendo verso il distretto più vicino. Quindi è in corso una crisi umanitaria, bisogni dal punto di vista medico, sanitario, cibo, distribuzione d'acqua. Bisogna approntare la prima accoglienza per 200.000 persone che scappano da zone in cui i combattimenti proseguono da circa 6 mesi. Questi combattimenti, tra l'altro, sono a una fase finale, la fase in cui l'esercito governativo ha messo spalle al muro le Tamil Tigers, le tigri tamil, che però rispondono combattendo e non lasciano, secondo quanto abbiamo letto, non lasciano scappare la popolazione, cercano di utilizzare i civili come scudi umani. Vi risulta? Chi riesce a scappare è chi, seguendo lo spostarsi della linea del fronte, si ritrova da zona sotto il controllo delle tigri tamil a zona sotto controllo governativo. Sono stati allestiti dei campi profughi? Sono stati allestiti dei campi profughi ed altri sono in fase di allestimento. Come le dicevo, si sta parlando di 200.000 profughi che stanno confluendo in un distretto in cui normalmente vivono 150.000 persone, quindi si sta fronteggiando un raddoppio della popolazione. La Croce Rossa Internazionale ha approntato un sistema di barche per far fuoriuscire i feriti dal mullaitivo via mare, e i numeri sono impressionanti. E salutiamo Giulia Crivelli, siamo sulla stampa internazionale, oggi siamo un po' in velocità, notizie che riguardano Fiat, Giulia. Sì, dalla Frankfurt Allgemeine Zeitung, forse il giornale più autorevole che ci sia in Germania, il giornale di Francoforte, spunterebbe un terzo acquirente per Opel, è un fondo americano, Ripplewood, anche Wall Street Journal dice che questa possibilità c'è, Handelsblatt sottolinea che è vero, l'interesse c'è, però a questo punto è anche vero che Opel comunque preferirebbe un partner industriale, un fondo di private equity potrebbe non avere le competenze necessarie o semplicemente avere una strategia completamente diversa, poco industriale, e invece siccome Opel vuole restare un player del mercato automobilistico, probabilmente il partner più migliore a oggi resta Fiat. E 20 secondi per l'andamento economico del settore, l'Eseco. L'Eseco che sottolinea, come purtroppo lo sappiamo, l'abbiamo ripetuto tante volte, questo è stato l'annus horribilis del settore automobilistico, 41 miliardi di euro le perdite complessive dei cinque colossi, cioè i primi tre sono americani, General Motors, Chrysler e Ford, e poi ci sono Toyota e Nissan, e questo naturalmente è un ulteriore segnale che il concentrarsi, quella visione di Marchionne, ne resteranno pochi, di produttori saranno molto grandi, probabilmente è veramente il futuro dell'auto. Il futuro davvero. Grazie Giulia Crivelli, avremo altre occasioni per parlarti, però restiamo all'estero e andiamo in Iraq. Un premio in denaro a chi restituisce un reperto archeologico trafugato. Si tratta della strategia per la salvaguardia dell'archeologia e dei musei iracheni voluta dall'esecutivo di Baghdad per stimolare l'onestà dei cittadini, ai quali sarà consegnata inoltre una targa che riporta lo stemma dell'ente Trasparenza, l'organismo di Stato che combatte la corruzione. La vastità del saccheggio e del danneggiamento all'immenso patrimonio archeologico della terra mesopotamica, avvenuta all'indomani della caduta del regime di Saddam Hussein, ha impressionato l'opinione pubblica mondiale, ma stando alle denunce delle ONG irachene, il trafugamento dei siti archeologici continua tutt'oggi. Adil Fatahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere, ecco allora le principali notizie di oggi. Voto di fiducia sul DDL sicurezza con il reato di clandestinità, Fini striglia la Lega, basta eccessi e propaganda. Il Papa da Betlemme invoca uno stato per i palestinesi, piango, dice, per le vittime di Gaza. Maxi multa per Intel, l'Europa sceglie la linea dura come per Microsoft e per abuso dominante dovrà pagare 1 miliardo. E la Formula 1 sempre più nella tempesta, dopo la Ferrari l'annuncio anche della Renault, l'anno prossimo, dice, noi non ci saremo. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, Alessio Maurizio, migliorati in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Le 13:52 minuti 30 secondi in questo istante, a noi non resta che salutarci, l'appuntamento è per domani, come sempre, a partire dalle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.